Le strade di Atene, tutte curve e ricurve, erano ancora più strette di quelle di Fliunte. Ci addentrammo nel quartiere del ceramico, dirigendoci verso quello dei ricconi. Ovunque era un formicaio, le case così piccole e strette, che non c'era da meravigliarsi se i cittadini liberi preferivano la vita all'aria aperta. Tutto era più di Fliunte, compresa la puzza che si sprigionava dalle fogne a cielo aperto. Rigagnoli maleodoranti fuoriuscivano dalle case. E ci fu detto che stavamo attraversando il più bel quartiere della città. Le viuzze erano così strette che Marpessa e io non potevamo camminare affiancate. Gli schiavi che ci accompagnavano si chiamavano Enipeo ed Ifilo, nomi voluti dai padroni. Enipeo era un ragazzo giovanissimo, taciturno. Difilo poteva avere una quarantina d'anni, contento di vedere facce nuove nella casa. Gli mancava l'occhio sinistro, il destro sembrava sempre sgranato. Ci portò in un bagno pubblico, sempre nel quartiere del ceramico, affinché io e Marpessa potessimo toglierci di dosso la sporcizia accumulata durante il viaggio per essere pronte alla festa che la padrona aveva organizzato per noi. Non riuscivo a capacitarmi di quanto fossero strette le stradine. All'inizio non capivo. Ogni tanto passavamo davanti a delle porte, sentivamo bussare dalla parte interna e le porte si spalancavano all'improvviso. Le prime volte io e Marpessa ci andavamo a sbattere contro. Ad Atene, nel quartiere del ceramico, così come in tutti quelli popolari, come ci informò Difilo, si bussava alle porte dall'interno per uscire e non all'esterno per entrare. Mi resi conto che dovevamo essere giunti al quartiere di Scambonide. Erano finiti i vicoli angusti, le strade erano alberate con platani e ippocastani e permettevano il passaggio anche di un carro. Il fondo era di pietra e non di melma maleodorante come i quartieri che avevamo attraversato quella mattina. Le case, diverse una dall'altra, erano semplicissime, con pareti esterne bianche. Solo qualcuna era arricchita da una pittura o da un fregio, ma sul portone principale tutte avevano una statua simbolo della fecondità e della vita. Un fallo enorme. Difilo, con la sua voce lamentevole, ci informò che quella che sarebbe divenuta la nostra dimora ospitava circa 70 persone in modo permanente. Nel cortile c'era un pozzo che serviva quando l'acquedotto non era sufficiente, perché ad Atene l'acqua giungeva direttamente dentro le case dei ricchi, nei quartieri residenziali di Scambonide e in una parte del ceramico interno. Difilo ci accompagnò al piano di sopra utilizzando la scala secondaria, situata a ponente, l'unica permessa a noi schiavi. L'altra, situata a levante, serviva ai padroni e agli ospiti. Ci condusse quindi lungo uno strettissimo ballatoio su cui davano le nostre stanze. Entrando nella cameretta che c'era stata assegnata, mi sentii male nel vedere quanto fosse piccola. Un buco senza finestra, strettissimo, con tre giacigli uno sopra l'altro e tre cassapanche. Mentre io e Marpessa ancora non ci riprendevamo dallo sconforto, giunse Peribea, la terza inquilina. Era una donna sulla quarantina, capelli radi, castani, volto devastato da cicatrici da fuoco, sorriso dolcissimo. Felice di averci con lei, cercò in tutti i modi sin dall'inizio di alleviare la nostra tristezza. Difilo ci lasciò nelle sue mani, informandoci che per la cerimonia del nostro arrivo nella casa si doveva attendere il padrone. Finalmente giunse la sera. Peribea aveva fatto confezionare per me e Marpessa due corone di fiori che dovemmo mettere sulla testa. Fummo accompagnate nel grande salone decorato da mosaici colorati, dove si ricevevano gli ospiti, e ci fecero sedere accanto all'altare domestico. Erano presenti anche alcune decine di nostri compagni. Demostene era seduta accanto alla concubina, alla moglie e alla madre. Due ragazze presero a suonare l'aulos e la cetra. A un certo punto Clizia, la moglie del padrone, andò ad accendere due lanterne a olio davanti all'altare della famiglia. Afferrò un piccolo cesto, venne verso di noi e prese a spargere sulle nostre teste dolciumi, fichi secchi e noci. Demostene si avvicinò a noi. Assiotea e Marpessa, questo è il dono che vi faccio. Vi lascio il vostro nome. Eravate cittadine libere, mi ha concesso quindi di poterlo fare. Dopo questa cerimonia resterete sole con me e conoscerete esattamente i vostri compiti. Fece una lunga pausa. Mi scrutò come se volesse leggermi dentro. Con il marchio che portate eravate destinate alle macine dei mulini o alle miniere dell'Aurio, nel migliore dei casi al postribolo del Pireo. Invece era appartenente a una delle migliori famiglie di Atene. Non ho detto ricche, ma migliori. Una delle famiglie il cui buon comportamento deve essere d'esempio a tutte le altre della città. Non permetterò mai che un componente della mia famiglia possa gettare un'ombra su di me. La mia immagine vale la vita di tutti noi. La sua voce era aspra. Assiotea, Marpessa, non potrete giacere con i vostri compagni. Se dovesse accadere che uno dei miei schiavi vi volesse come moglie o compagna, lasciate che sia lui a parlarmene. Sarò io a decidere il vostro futuro. Probabilmente vi venderei, ma potrebbe anche darsi di no. Lo valuterei in quel momento, dopo avervi letto nel cuore e nella mente, ma fino ad allora voi non giacerete con nessuno, né in questa casa né fuori. Un'altra lunga sosta. Non ho alcuna intenzione di perdere denaro e parte del vostro lavoro affinché voi vi riproduciate, anche se ci sono fiore di famiglie aristocratiche che incentivano i loro schiavi a riprodursi per poi vendere i bambini. Il silenzio era grave. Ci tengo ad avere un tuo parere su questo, Assiotea. Attesi solo qualche attimo, per educazione. La nostra esperienza matrimoniale è stata così terribile che sia io che Marpessa non avremo mai più nella nostra vita il pensiero di giacere con qualcuno. Senza battere ciglia mi rispose: Sei ancora troppo giovane. Siete due ragazze avvenenti, sane. E quando decidono di allearsi gli dèi e madre natura, possono accadere eventi impensabili. Poi, con il chiaro proposito di chiudere quel discorso, allentò la serietà dei suoi lineamenti. Certo, se un giorno gli dèi e madre natura dovessero allearsi per far sì che uno dei due bandi schiavi insidiasse la povera Peribea, ecco, in quel caso sì che potrei dormire sonni tranquilli. E tutti esplosero in una risata liberatoria, compresa Peribea, nella quale doveva essere abituata a quelle battute. Demostene fece un cenno ad Ifilo e a Peribea. Tutti gli schiavi si ritirarono compostamente. Poi ripeté il gesto anche alla madre, a Clizia e a Arianna, che a loro volta abbandonarono il salone. Restammo sole con lui. A partire da domani mattina dovrete copiare tutto quello che vi darò, con una grafia chiara, senza l'ombra d'errore alcuno. Io scrivo discorsi, programmi politici, lettere ad ambasciatori, a dar conti di altre città, di altri stati. Quindi il vostro non sarà un semplice lavoro di trascrizione. L'ideale per me sarebbe che voi due non aveste cervello, ma nonostante madre natura non ve ne abbia fornito della stessa nostra qualità e peso, ne avete pur sempre uno. Per questo il vostro lavoro richiede assoluta segretezza. Voi copierete. Poi cancellerete dalla vostra mente tutto ciò che avete letto e copiato. Il suo volto triangolare assunse un aspetto ancora più duro. Se una sola parola dovesse trapelare, vi venderò a Firomaco e questa volta nessuno vi risparmierà le miniere dell'Aurio. Attenuò la determinazione del suo sguardo. Lavorerete nel piccolo studio che ho fatto scavare sottoterra, a cui si accede dalla botola che avete visto qui fuori. Lo studio sarà sempre chiuso, ci sono solo due chiavi, una l'avrete voi, l'altra io. Sembrava aver esaurito il discorso, invece aggiunse: Avete bisogno di qualche chiarimento? E fissò attentamente prima Marpessa e poi me. La mia amica era visibilmente in soggezione e io mi feci coraggio. Durante le mie ore di libertà vorrei poter leggere, signore, ma non possiedo nemmeno un libro. Hai 18 anni, Assiotea, è così? Non attese nemmeno la mia risposta. Anch'io sono rimasto orfano, ma ero molto più piccolo di te. E a me non morì la madre, ma il padre, a 7 anni. I miei tutori disonesti rubarono tutta la mia eredità, ma questa è stata la mia fortuna. L'uomo cresce bene nella difficoltà. E credo che per certi versi a te stia accadendo qualcosa di simile. Dunque, i libri. Sì, in questa casa, anzi, nello studio dove lavorerete, c'è una piccola biblioteca accessibile solo a me. Donne schiavi non possono assolutamente metterci il naso, ma il tuo è un caso speciale. E per la prima volta lascio aperto un discorso. Dall'età di 7 anni non ho fatto altro che aiutare mia madre a copiare i libri, signore, e copiando li leggevo. Mio padre era commerciante di papiri, Piramo di Fliunte, e lavorava soprattutto per questa città. Lo conosco di nome. Perché? Era? Non è più in vita. Subito dopo il mio matrimonio e il ripudio di mio marito, dopo avermi ceduta come schiava, ha venduto tutta la proprietà e probabilmente si è trasferito in Trinacria. Era questo il suo desiderio. Parve riflettere a lungo. Nella mia biblioteca non ci sono libri di poesie, tragedie, commedie. Ci sono soprattutto libri di storia, oltre ai soliti Esiodo e Omero. Se io potessi scegliere, leggerei solo libri di storia. Nella storia c'è scritto tutto, signore. Cos'è per te questo tutto contenuto nei libri di storia? E atteggiò le labbra a una specie di sorriso. La follia dell'uomo, la violenza e la guerra. L'uomo non sa fare altro. Uccidere. Questa creatura che ha sottomesso gli elefanti, che sta cacciando quasi definitivamente i leoni dalle Ellade. Questa creatura che ha costruito il Partenone, capace di pensare l'impensabile. Ebbene, questa stessa creatura non sa progettare altro che la guerra. Da sempre. Ogni guerra è una sconfitta dell'evoluzione umana, signore. Occhi leggermente accigliati, una smorfia sarcastica sul volto. Leggi tutti i libri che vuoi, ma lì, nella stanza da lavoro. Riuscì a convincere Difilo e Peribea a lasciar perdere i doveri religiosi. Era il terzo giorno delle feste apaturie, in cui i padri si riunivano nei santuari delle loro fratrie per far iscrivere nel proprio demo i loro figli legittimi. Faceva freddo, ma brillava un sole tiepido che mi illuminava dentro. Peribea e Difilo ci precedevano parlando tra di loro di tutti i problemi legati all'andamento della casa. L'agorà era così grande che i miei occhi non riuscivano a contenerla tutta. Era una festa di colori e di suoni, di odori e di musica, tra la miriade di lingue e dialetti, tra grida e bestemmie. Sacerdoti e eunuchi, vestiti di rosso e di pendagli tintinnanti, mendicavano nei templi. Gli ispettori guardavano se noi donne andavamo vestite compostamente, mentre i contadini, i venditori ambulanti di papiri e di dolci, si mescolavano fra loro, attorniavano i combattenti di galli, gli scommettitori eccitati. E poi c'erano gli animali, bestie d'ogni tipo, ma soprattutto cani che si intrufolavano fra la gente, che entravano nelle botteghe colorate in cui si vendevano di tutto: cianfrusaglie inutili, giocattoli, specchi mobili, formaggi, olive di tutta l'Ellade e orci colmi d'olio o pieni di vino. Peribea ci fece arrampicare sulla collina per visitare il bellissimo tempio di Efesto, l'altare di Afrodite Egemone e delle Grazie. Gli edifici amministrativi, il Bouleterion, l'altare di Zeus Agoraios, la base degli eroi eponimi, il tempio di Zeus Fratrios e di Atena Fratria, dove quel giorno si svolgevano molte cerimonie. Ci portò anche al portico di Zeus Eleuterios, all'altare dei 12 dei e al tempio di Ares. Il santuario di Teseo, dove si era svolta l'asta e Demostene ci aveva comprate. Il giro si concluse al mulino d'acqua lungo il corso del fiume Eridano, il cui alveo era incanalato in una conduttura di pietra. Poi Difilo ci disse di seguirlo, ci avrebbe finalmente accompagnato alla bottega dei libri, e così, percorrendo via dell'Areopago, passammo davanti alla rotonda, la Tholos, considerata il centro della vita pubblica di Atene, dove c'erano sempre, a turno, i 50 pritani. L'edificio era circondato da una trentina di arcieri armati, la strada si snodava in una leggera salita. Fiancheggiammo la casa delle fontane e prima di giungere al tempio triangolare ci addentrammo in uno spiazzo verde sulla destra, circondato da platani. Ed ecco una specie di casupola rettangolare in pietra scura con una grande porta in legno che occupava quasi tutta una facciata. Sulla porta era stata dipinta la scrittura Papiri. Difilo e Peribea ci attesero fuori mentre io e Marpessa ci intrufolavamo nell'antro colmo di scaffali e cassapanche. La luce del sole riusciva a penetrare nel locale attraverso due finestre strettissime, poste sui lati lunghi della costruzione. In quel momento c'erano due uomini, uno sui 50 anni, scalzo, trasandato, austero, e l'altro, più anziano, di età indefinibile. Il vecchio era di piccolissima statura, capelli bianchi, irti, ricciuti, che sembravano incollati sulla testa come serpenti, volto quadrato, butterato, naso bitorzoluto. Sollevò due occhi spiritati, azzurri, con un vocione possente, gridò che non aveva tempo da perdere. Ma l'uomo che stava con lui gli pose una mano su un braccio. Ufione, guarda che queste due ragazze sono le attuali copiste di Demostene. La sua voce suonò melodiosa in contrasto con la faccia arcigna. Il vecchio guardò fissamente verso di noi, incredulo. L'uomo riprese: Devi credere al tuo amico Focione. Pensa che ha cercato addirittura di strappargliela all'asta offrendo ben 2.000 dracme. E scuoteva il capo con la stessa delusione sul volto che aveva quel giorno. Ma è stato un bene, perché sinceramente non avrei saputo dove prendere tutto quel denaro. Ofione non sembrava ancora convinto. E quanto le avrebbe pagato quel taccagno di Demostene, secondo te? Focione glielo rivelò. Il vecchio rimase interdetto. 30 mine? 3.000 dracme per queste due smorfiose? E ci soppesava dalla testa ai piedi. Ci venne vicino, si era accorto dei marchi a fuoco. Amico Focione, tu sei uno stupendo oratore e grande uomo di cultura, ma in fatto di donne, diciamo che non te ne intendi molto. La provenienza e il destino di queste due ragazze è una sola, il postribolo del Pireo e del Ceramico. Non riuscivo a sentirmi offesa, tanto paradossale era la scena. Nonostante tutto, il vecchio mi era simpatico, e poi c'era qualcosa nell'aria che mi inebriava, forse quell'acre odore di papiro. Mi permise di intervenire. Devo comprare qualche libro per il mio padrone. Mi permette di guardare, signore? Ofione rimase a bocca aperta. E magari hai anche un'idea di quello che vuoi acquistare, vero? E il suo faccione eruttò uno sberleffo. Demostene dice di non averne sentito parlare, signore, nemmeno da Platone e da Aristotele all'Accademia, mentre io sono sicura che esistono. Parlo dei filosofi Leucippo e Democrito, i fondatori dell'atomismo. Entrambi gli uomini sgranarono gli occhi per la sorpresa, ma intuì che era una reazione di natura diversa. La sorpresa di Focione era quella genuina di chi per la prima volta ha sentito parlare di qualcosa di assolutamente sconosciuto, mentre quella di Ofione era come intrisa di rabbia. Ne approfittai per aggiungere: più precisamente, sono alla ricerca del grande ordinamento di Leucippo. Focione intervenne per primo. Demostene ha ragione. Abbiamo studiato entrambi all'Accademia e non ne abbiamo mai sentito parlare. Io continuo a frequentarla anche adesso e mai una sola volta che abbia sentito un accenno a questi due filosofi. Poi, fissandoci con due occhi senza ombre, questo non vuol dire che tu stia errando, Assiotea. Ti chiami così, vero? Assiotea di Fliunte. Questo significa solamente che noi non ne abbiamo mai sentito parlare. Ma il vostro amico Fione li conosce, signore? Focione rimase in attesa, fissando l'espressione stralunata del vecchio. Lo sguardo del vecchio libraio restò cupo, immobile. Mi fissava in modo strano. Alla fine sedette sul banchetto di olivo accanto a lui. Sollevò gli occhi su Focione. Io i libri li riconosco al tatto, ma anche con il naso. Ogni codice è diverso dall'altro, ha un odore particolare. E quel libro puzzava in un modo unico, aggiunsi io. Il vecchio mi lanciò un'occhiata con la coda dell'occhio. Proprio così, una puzza incredibile. Questo fu il motivo per cui lo sfogliai soltanto, proponendomi di leggerlo dopo avergli fatto prendere un po' d'aria. Lo misi sullo scaffale accanto a quella finestra. Passò un po' di tempo, decisi finalmente di lanciarmi alla scoperta di questo grande ordinamento di Leucippo. Girò verso di me il faccione. Ma quel codice puzzolente non c'era più. Qualcuno me l'aveva rubato. E con una delle grosse mani prese a strofinarsi nervosamente la punta del naso. Focione volse il capo verso di me. Assiotea, dove è finito il libro che avevi tu? Lo hai letto? Mi feci forza. No, signore, non ne ho avuto il tempo. Me ne parlò mia madre. Doveva farne 5 copie, ma un ladro rubò la borsa con il libro dentro. E per far questo la uccise. L'uomo mi venne vicino, mi strinse a sé con un tale segno di affetto che mi fu impossibile frenare la commozione, mentre Marpessa raccontò il resto della mia storia. Senza separarsi da me, l'uomo si rivolse a Ofione. Quando è avvenuto il furto? Una quindicina di giorni dopo la fine dei giochi di Argo dello scorso anno. E il furto a casa tua, Esiotea? Più o meno nello stesso periodo. Fu il giorno in cui a Fliunte arrivarono gli eroi di Argo. Quasi balbettavo per l'emozione. Diciamo una settimana dopo? Sì, signore, una settimana. Ofione, non hai avuto mai sospetti su qualcuno? A questo punto si può dire che non stiamo parlando solo di un ladro, ma anche di un assassino. Sentì il braccio dell'uomo irrigidirsi. Il vecchio ci guardava serissimo. Dal suo volto era sparita ogni traccia di teatralità. E pensare che io lo conosco, quel bastardo, ma non so chi è. E prese a straziarsi il capo con le mani. Ma un giorno mi verrà in mente un particolare, un dettaglio e lo inchioderò. Le sue dita liberarono ancora più disordine nel caos che regnava nella sua zazzera. E tu, figliola, perdonami per averti dato della smorfiosa. Focione si separò da me, continuando a fissarmi con i suoi occhi solo apparentemente torvi, ma al cui profondo si intravedeva una dolcezza incredibile. Dimmi se posso fare qualcosa per te, Assiotea. Ho letto La Repubblica del Sommo Platone. Dice che l'uomo è superiore alla donna per natura. Un giorno vorrei parlare con lui, e lui deve giustificare a me questa frase. Finalmente riuscì a frenare la mia commozione. È il pensiero dominante di tutta l'Ellade, forse di tutto il mondo. Questo non è un concetto filosofico, signore. Questa è la legge dei vincitori. Con una mano afferrai quella tremolante di Marpessa. Vorrei entrare nell'Accademia, signore. Ofione si intromise scuotendo la testa in modo buffo. Senti, ex ragazza smorfiosa, ma tu non dovevi acquistare qualche libro per il tuo padrone? Focione ne approfittò per salutarci. A me dette un bacio sulla fronte. Non sono ricco, altrimenti vi ricatterei proponendo alla città di restituirvi la libertà. Farò di tutto, Siotea, per metterci una buona parola con Platone. Si avviò verso l'uscita, all'improvviso si girò. Lo volete far felice il vostro padrone? Comprategli qualche libro erotico. Quando eravamo assieme all'Accademia, non faceva che pregare lo stagirita affinché gli facesse leggere il suo capolavoro. E tutto il volto arcigno s'aprì a una luce liberatoria. Ofione afferrò quella battuta al volo e ci trascinò davanti a uno scaffale. Afferrò un libro che profumava di nuovo e ci mostrò il trattato di Aristotele sulle etere ateniesi, criticando sì le scarse qualità letterarie dello stagirita, ma elogiandone le indubbie raffinatezze dedicate al dio Eros. Io e Marpessa prendemmo a ridere di cuore, ma rifiutai di comprarne uno per Demostene. Dalla porta d'ingresso sentimmo la voce lamentevole di Difilo che ci ricordava che si era fatto tardi. Non potete tornare da Demostene senza un libro. Il vecchio si inginocchiò, mettendosi a frugare in uno scaffale e traendone un codice che otturava di papiro freschissimo. Sicuramente il vostro signore padrone non lo possiede. Sono appena 6 anni che Senofonte è morto e questa è stata una delle sue ultime opere copiate. Vi garantisco che questo simposio è di gran lunga più interessante di quello del Sommo Platone, per la modesta somma di 5 dracme. E negli occhi brillò un lampo di furbizia. Ma subito dopo si spense nel sentire che io chiamavo ad alta voce Peribea, la quale ci raggiunse. E mentre io controllavo nella lista che quel libro effettivamente non facesse parte della biblioteca di Demostene, la mia amica tirò fuori dalla borsa di cuoio 2 dracme e le porse a Ofione. Il vecchio libraio restò inebetito, con le 2 monete nel palmo della mano, ma non bloccò l'acquisto. Ci avviammo verso l'uscita. Un pensiero improvviso mi fece tornare indietro di corsa. Ofione, chi ti aveva venduto quel libro che puzzava? Ero ansiosa. Un commerciante di libri e di papiri della tua città. Piramo di Fliunte, aggiunsi, sempre più emozionata. Lo conosci, Assiotea? Il vocione risuonò intriso di sorpresa nell'antro colmo di libri. È mio padre, mi morsi le labbra. Era mio padre e fuggì, rituffandomi nell'assordante clamore della piazza. Capitolo 6. Inferiori per natura. Il giorno 30 dello stesso mese ricorreva la festa delle corporazioni, dedicata al dio dei fabbri Efesto e ad Atena operaia, protettrice delle arti e dei mestieri, in special modo dei lavori femminili. Il nostro giorno di libertà coincise con quella data. Io e Marpessa ottenemmo il permesso di uscire assieme ad Ifilo. Demostene si trovava nello studio sotterraneo. Era una giornata fredda, con un cielo stranamente grigio. Eravamo giunti al quartiere del ceramico. C'erano stendardi un po' dappertutto. Quello era il quartiere dei vasai, ma anche dei fabbri, dei panettieri, dei carpentieri. Ci fermammo davanti a un grosso laboratorio di vasellame, gremito di gente. Sopra un trespolo di legno era appoggiato un vaso bellissimo, adornato da una corona di fiori su cui era scritto a caratteri dorati: Cipselo ha offerto questo dono come primizia ad Atena Ergane, dopo essere stato incoronato dai suoi compagni di Tiaso. Difilo ci spiegò che il Tiaso era una corporazione di artigiani e in quel caso tutti i vasai, in occasione della festa, avevano partecipato al concorso per premiare l'opera più bella. E aveva vinto proprio quel vaso a Cipselo, il padrone del laboratorio, lo aveva dedicato alla dea. Si brindava con biscotti, olive e vino, prima di iniziare la processione che li avrebbe portati al Tempio di Atena per offrire gli ex voto. Mentre Marpessa si gettava nella calca per fare incetta di olive per lei e per noi due, Difilo mi spinse nella bottega di dolciumi alle nostre spalle. Un odore di miele profumo ci investì. Il mio amico chiamò ad alta voce e la ragazza che stava trafficando davanti al forno si girò e si diresse verso di noi. Difilo ordinò due dolcetti al miele, dall'aspetto appetitoso esposti su un grosso piatto di ceramica. La ragazza con delicatezza li raccolse, sistemandoli in una foglia di verdura, porgendoceli con la punta delle dita, attentissima a non strofinarci con le lunghe punte di ferro acuminate che sporgevano dal collare chiuso con un lucchetto di ferro. Era la prima volta che vedevo una cosa del genere. Le chiesi come mai portava quel mezzo di tortura al collo. Oh no, amica mia, non è un ferro per torturarmi. Tutte le ragazze che lavorano come me nelle pasticcerie devono portare questo collare. Forse fanno bene i nostri padroni a obbligarci. Se non avessi queste punte, sai quanti dolcetti porterei alla bocca? Con la fame che ci ritroviamo, li finirei appena cotti, te lo posso assicurare. Con un'espressione di rassegnazione sul volto, protese le mani per ricevere l'obolo che Defilo le porgeva. Uscimmo mentre Marpessa ci cercava, la raggiungemmo. Difilo ci consigliò allora di partecipare all'assemblea della nostra corporazione. Spalancammo gli occhi per la sorpresa, non riuscì a controllare il tono concitato della mia voce. Esiste un tiaso di questo genere? Difilo ci fece cenno di seguirlo. Io e Marpessa lo affiancammo pendendo dalle sue labbra. Magari esistesse. Vorrebbe dire che in Atene si venderebbero più libri che fichi secchi. E mi lanciò un sorriso amaro. Ma oggi c'è l'assemblea preparatoria. Potrebbe davvero nascere un tiaso dei copisti. È una riunione non autorizzata dalla legge e deve rimanere segreta. Il ceramico era un labirinto di curve strettissime. Quel giorno spirava un vento che disperdeva in parte il lezzo dei vicoli. Giungemmo in via dei conciatori ed entrammo in un laboratorio dove si lavorava la pelle. Era un antro scuro in cui penetrava qualche raro lembo della luce grigia del giorno. C'era solo un vecchietto con un buffo copricapo in testa, scuro in volto, intento a lavorare. Sollevò gli occhi lacrimosi, riconobbe Difilo, gli fece cenno di passare. Entrammo nella parte posteriore del laboratorio, strapiena di pelli messe a essiccare. La puzza della carne in putrefazione era orribile. Attraverso una strettissima galleria scendemmo in una grotta illuminata da piccole torce. C'era un altare con delle lucerne accese nella base. Sedute su panche di legno, un centinaio di persone, quasi tutti uomini e tutti con i capelli rasati a zero, intenti a un chiacchiericcio febbrile. Le poche donne presenti avevano anch'esse i capelli cortissimi, come me e Marpessa. Erano tutti schiavi come noi. Fra di esse, Feribea, che ci volle subito accanto a lei. Sono stata io a insistere con Difilo per portarvi qui, e il suo volto martoriato dalle cicatrici s'aprì all'entusiasmo. Fra poco arriverà un uomo molto importante. È la prima volta che interviene a una nostra riunione. Assiotea, tu sei la più giovane qui, ma non potevi mancare. Hai le idee chiare più di tutti noi. E sei come il nostro padrone. Sai dire le cose giuste al momento giusto. E le brillò negli occhi una luce sognante. Conto su di te, mi raccomando. La persona che interverrà oggi è un cittadino libero, un uomo politico come Demostene, anche se la pensa un po' diversamente da lui. E quel tal Fucione che incontrai nella bottega dei libri all'Agorà? Il brusio crebbe, per poi spegnersi in tanti rivoli. Accompagnato da una giovane donna e da un ragazzo, era entrato un uomo dai lunghi capelli biondi, barba corta e ispida, fisico agile ed atleta. Il cuore prese a martellarmi. Il tempio di Eracle a Cleone. La nuvola sull'Olimpo. Si fece largo. Vollero sedere in mezzo a noi, quasi al centro. I suoi accompagnatori sedettero, mentre lui restò in piedi. Non riuscivo a respirare per l'emozione. Saluto tutti con un cenno della mano destra. Increspando amichevolmente la bocca, indirizzò un sorriso a Difilo, a Peribea, i quali risposero alzandosi e salutando con la mano. I suoi occhi verdi s'accesero. Si avvicinò a noi, mi scrutò incredulo, sfiorò il mio braccio sinistro con un dito. Quel dito tremolante seguì la cicatrice quadrata. Assiotea. Sei proprio tu. Strinse le mie mani tra le sue, uno sguardo violento negli occhi, osservando il mio marchio a fuoco. Allora tu devi essere una delle due nuove copiste di Demostene. Poi mi racconterai. Non andartene, ti prego. E mi lasciò, con la mia emozione, che schiudeva le ali.